Salva Danaio di Deborah Rosciani. I soldi non ci sono, il destino non ci sono più. Allora dove li troviamo? Li rubiamo, facciamo una rapina. Inventiamoceli. Entriamo in borsa, ci facciamo sovrastimare il prezzo delle nostre azioni. Se lei avesse 1 milione di euro, chiederebbe un prestito per comprare una macchina. Ma dov'è che insegnano questi indovinelli? Alla Bocconi? Io non rubo la mia società. Ma che c'entri tu? Io sono il capo. Chissà se qualcuno di voi, leggendo le cronache finanziarie di quel periodo, hanno immaginato un dialogo tipo quello che abbiamo appena sentito fra Calisto Tanzi, il patron della Parmalat, e il suo ex scaltro direttore finanziario, Fausto Tonna, la mente di una delle più colossali truffe finanziarie della storia italiana e probabilmente europea, una truffa da 14 miliardi di euro. Quel personaggio che si lasciò scappare davanti ai giornalisti appena arrestato. La frase «possiate morire di morte lenta e dolorosa a voi e ai vostri cari». Buongiorno da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Quello che avete sentito in apertura, agganciato alla nostra sigla, è un passaggio tratto dal trailer del film Il Gioiellino. Ci ripropone da oggi nelle sale cinematografiche di tutta Italia la vicenda Parmalat, la storia del fallimento di uno dei fiori all'occhiello dell'industria agroalimentare italiana. Oggi società risanata grazie al lavoro del commissario straordinario Enrico Bondi, ma il risanamento, come sapete, ha solo parzialmente risarcito i migliaia di risparmiatori rimasti coinvolti nel crack. È andata meglio agli ex obbligazionisti del gruppo di Collecchio, niente hanno ricevuto invece in questi anni gli ex azionisti che per definizione hanno partecipato al capitale di rischio, quindi naturalmente a loro non spetterebbe nulla, ma molti di questi si sono radunati in comitati, in associazioni, appunto per poter o in qualche caso dialogare con l'azienda per capire se poter ottenere qualcosa. Altri sono andati invece avanti con l'azione legale nei confronti delle banche, ci sono delle cause civili, ma insomma ancora a distanza di anni la situazione è completamente aperta per molte persone. La settimana però che si sta chiudendo oggi ci ha riesumato nella memoria anche un altro gravissimo crack che ha mandato in fuga il risparmio di 35.000 persone, complessivamente per 1 miliardo e 125 milioni di euro. Parliamo del caso Cirio perché a distanza di oltre 10 anni dal fallimento del gruppo guidato da Sergio Cragnotti, un crack da 2 miliardi di euro, nel processo che si celebra a Roma sono arrivate le richieste di condanna per Cragnotti e i vertici delle banche ritenute responsabili appunto di quella bancarotta. Allora oggi, prendendo a pretesto questi due fatti di cronaca, abbiamo ritenuto opportuno rinfrescarci la memoria su queste due vicende. Con chi lo faremo stamattina? Moria Longo, del Sole 24 Ore. Moria, ciao. Ciao. Con lui ci intratterremo soprattutto sulla questione Cirio e si è riportato addirittura i prospetti informativi di quelle emissioni di quegli anni. Naturalmente non c'era la versione italiana. No, erano prospetti per modo di dire, si chiamano offering circular. Sono prospetti scritti in inglese ma relativi soltanto agli investitori istituzionali, non ai risparmiatori. Quindi questi documenti i risparmiatori non li hanno mai visti. Infatti, sono fa senso anche guardarli. Io posso solo descrivere questi documenti che Moria ci ha portato oggi. Sono dei fogli anche un po' ingialliti, ma sicuramente sono dei documenti che fra qualche anno chissà quanto varranno, anche Moria magari. Beh, sicuro più dei bond. Esatto, non c'è più niente lì. Giuseppe Dorta, responsabile ADUC per la tutela del risparmio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo. Presidente, buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi. Più tardi ci collegheremo con Michele Cipolli del CRIPAP, Comitato Risparmiatori Piccoli Azionisti Parmalat, e naturalmente microfoni aperti anche a voi all'800240024. Se volete scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. C'è talmente tanto da raccontare che non so effettivamente da dove cominciare, però visto che siamo partiti dalla presentazione del film Il Gioiellino, volevo ricordare quando è stata l'ultima volta in cui ci siamo occupati del caso Parmalat. È stato in metà dicembre, quando è stata inflitta a Parma la condanna a 18 anni di reclusione a Calisto Tanzi per essere stato il cuore, il centro di quella che gli inquirenti avevano definito la più grossa fabbrica di debiti del capitalismo europeo. Una sentenza con pochi precedenti, almeno per l'Italia, quella che aveva condannato l'ex patron di Parmalat per bancarotta condotta fraudolenta e associazione per delinquere emessa dal Tribunale di Parma dopo un processo durato quasi 3 anni che ha ricostruito il crack di Collecchio. Una sentenza esemplare, Paolo Martinello, che però ha lasciato l'amaro in bocca ai 100.000 risparmiatori vittime di quel crack ancora oggi che continuiamo a definire clamoroso. Per quello che riguarda l'attività delle associazioni dei consumatori, sono delle pratiche ormai archiviate quelle di questi gravi dissesti finanziari o ancora continuate a seguire delle persone appunto che vogliono in qualche maniera recuperare quanto hanno perso con questi fallimenti? Non sono pratiche archiviate, stiamo continuando a seguire nel caso di Altro Consumo migliaia di risparmiatori coinvolti nel crack Parmalat, però devo dire con delle prospettive di risultati estremamente modeste, devo dire la verità. Noi abbiamo inizialmente coltivato un gruppo che abbiamo tuttora di circa 6.000 persone coinvolte nel crack Parmalat, le abbiamo portate all'interno di una class action americana che è finita sostanzialmente male, abbiamo, poi spiegherò magari perché, ma abbiamo anche avviato delle azioni civili davanti al Tribunale di Milano contro i revisori dei conti per poter avere una posizione comune, un avversario comune a tutte queste persone, e anche queste azioni languono, diciamo, è difficile vederne una via d'uscita positiva. Quindi effettivamente il dato generale che registrerei anche alla luce di quello che dicevate voi prima è che tutta la vicenda giudiziaria e del risarcimento del crack Parmalat, probabilmente anche a causa della mancanza di uno strumento processuale valido, efficace, la famosa class action che poi è arrivata ma molto tardi e inapplicabile a queste vicende pregresse, la vicenda si è frantumata in tanti rivoli. È stato così anche un po' per il caso Argentina, è stato così anche per il caso Parmalat, si è frantumata in centinaia, migliaia di vertenze, piccole, grandi, in Italia e all'estero, e i risultati globalmente sono abbastanza insoddisfacenti. E anche se sono da considerarsi ovviamente totalmente insoddisfacenti, soprattutto per gli ex azionisti di questa azienda che non hanno ottenuto niente, questo è abbastanza naturale che avvenga, si partecipa al capitale di rischio, quindi il rischio si corre anche del fallimento, e però questo è un fallimento che ha avuto una natura talmente particolare che ha come presupposto una truffa clamorosa, pertanto anche gli ex azionisti rivendicherebbero effettivamente la possibilità di ottenere qualcosa. Peraltro sono molte anche le persone che ci stanno chiamando all'800240024 e vedo proprio che sono ex azionisti della società che non si capacitano del fatto che non possano beneficiare, come è capitato per i vecchi obbligazionisti, della nuova Parmalat, perché ci fu il famoso concordato dopo il fallimento che permise appunto ai titolari degli ex bond di Collecchio di convertire quanto loro avevano a seconda della tipologia di obbligazione che avevano in azioni della nuova società appunto che stava creandosi, della NewCo. Detto questo, andiamo invece adesso a Cirio. Ricordiamo un po' anche quel caso clamoroso. Moria Longo lo ricostruisce sul Sole 24 Ore di ieri, un crack che cambiò il mercato italiano, che si abituò in quel periodo a far circolare appunto sul mercato Moria i cosiddetti spaghetti bondi. Devo dire che questa definizione non l'avevo mai vista, te la sei inventata? No, si usava ai tempi. Sì, sì. Quindi tu eri già un bravo giornalista finanziario, evidentemente mi sfuggì in quel periodo. Allora, il fallimento di questa azienda si consumò formalmente nel novembre del 2002, quando, esattamente come successe per Parmalat, anche Cragnotti non fu in grado di restituire una super obbligazione in circolazione. E poi che cosa successe? Sì, diciamo che gli eventi che riguardarono Cirio furono molteplici. Si cercò di rimborsare quello obbligazione nei primi giorni, perché ogni obbligazione ha un cosiddetto periodo di grazia, per cui un tot di giorni nel quale puoi comunque non andare in default. Non ci riuscirono, poi si tentò di fare un piano di salvataggio, lo fece Rivolsi, che fu bocciato nell'assemblea degli obbligazionisti, dopodiché si andò all'amministrazione straordinaria e alle dismissioni che ci sono state negli ultimi anni. Questo per quanto riguarda Cirio. Però quello che è cambiato da quel novembre del 2002 in realtà è cambiato l'intero mercato obbligazionario italiano, perché fino a quel momento molte imprese avevano l'abitudine, con le banche come consulenti, come advisor, sia le banche d'affari e poi le banche retail che vendevano, avevano l'abitudine di fare obbligazioni che noi abbiamo definito spaghetti bond proprio perché erano anomale. Anomale per questo motivo: erano obbligazioni senza un rating, non avevano un prospetto italiano avvalidato dalla Consob, quindi non potevano essere vendute a risparmiatori, dovevano essere vendute a investitori istituzionali. Però come cosa succedeva? Che le banche d'affari che emettevano queste obbligazioni le vendevano alle banche retail, quindi investitori istituzionali, le quali le vendevano ai risparmiatori. Quindi... No, tra l'altro c'è un passaggio molto curioso nel pezzo che tu hai scritto ieri, dove indichi che praticamente teoricamente sarebbero dovuti finire nelle mani delle famiglie solo a patto che loro lo chiedessero esplicitamente allo sportello, ma questa è una circostanza che mi risulta esattamente curiosa. Il punto è questo: siccome questi titoli erano destinati a investitori professionisti, le banche appunto, aggirando la norma, le vendevano ai risparmiatori, potevano farlo, non era vietato, ma dovevano essere appunto i risparmiatori a chiederlo. La cosa curiosa è che tutti i risparmiatori improvvisamente si svegliavano e chiedevano questi mitici Cirio Bond. Ho un dato divertente, o meglio triste purtroppo per molte persone: le obbligazioni di Cirio Hold in Luxembourg emessa nel 2001 e che appunto era per investitori istituzionali, il 90% di questo bond è andato ai risparmiatori, e la cosa più curiosa è che il 30% dell'importo è stato collocato nei primi 15 giorni in cui il bond ancora non esisteva formalmente, cioè era il periodo del cosiddetto mercato grigio. Evidentemente in quel periodo c'era la grande voglia dei risparmiatori di comprare quel titolo, oppure diciamo che sono stati un pochettino spinti allo sportello. Avevano dei rendimenti interessanti queste obbligazioni. Ecco, questa Maria, secondo me è l'altra grande anomalia del caso Cirio e di tutti gli spaghetti bond, tra virgolette, tra cui Giacomelli, Parma e tante altre circostanze. Che ci siano obbligazioni ad alto rischio è normale, nel mondo ce ne sono miliardi, li chiamano junk bond in America, obbligazioni spazzatura. Però queste obbligazioni hanno solitamente un rating e un rendimento adeguato per compensare il rischio, e vengono comprate da investitori istituzionali che per lavoro vanno a scegliere situazioni di crisi perché hanno la loro finalità di investimento. Queste obbligazioni non avevano un rating, quindi non si sapevano che erano così ad alto rischio, e avevano rendimenti nettamente più bassi dei junk bond, appunto, delle obbligazioni che all'estero vengono vendute, obbligazioni rischiose. E questo secondo me era un po' la vera trappola, il vero inganno delle obbligazioni Cirio era questo, cioè che se avessero avuto rendimenti del 10%, 15%, la gente magari non l'avrebbe comprato perché avrebbe capito che c'era qualcosa di rischioso sotto, ma avendo rendimenti ben più bassi, traevano in inganno, diciamo, in un certo senso truffate, o comunque erano incentivate a comprare questi titoli proprio perché avevano rendimenti un po' più alti dei BTP, ma non così alti da destare allarme. E questo secondo me è il vero succo della truffa di Cirio. Allora, dobbiamo già fermarci per la nostra prima pausa, quindi chiedo un minutino di pazienza a Giuseppe Dorta, che comincia ad interpellare nella seconda parte della nostra trasmissione, proprio magari ricordando invece che tassi di recupero sono riusciti ad ottenere in questi anni i risparmiatori appunto che hanno investito in titoli Cirio. 800 24 0024, c'è anche Giorgio da Asti, oltre alle telefonate in attesa, che ci ha scritto e che appunto si definisce uno dei moltissimi torlupinati dalle banche con i bond Cirio, detiene tuttora questi titoli nel suo portafoglio, non ha fatto causa alla banca che li ha venduti, ma non sa più cosa farne, anche se a suo tempo ha provveduto a bloccare i termini di prescrizione mediante lettera appunto alla banca venditrice. Quindi vorrebbe un consiglio su come comportarsi anche alla luce delle sentenze che abbiamo, delle sentenze in proposito. Dice che a breve dovrebbe essere pronunciata la magistratura a carico dei responsabili del fallimento. Quindi magari, Giorgio, le daremo così qualche indicazione, vediamo un po' cosa è possibile fare. Ci sentiamo tra pochissimo. Rastelli, per stare nella serie A del capitalismo bisogna giocare a tre punte con il tridente: un giornale, una squadra di calcio e una banca. E la banca io non ce l'ho. Quindi le manca l'erogatore finanziario del plusvalore liquido. Ecco, appunto, io pensavo che se lei volesse mettere uno dei miei uomini alla presidenza, Schianchi per esempio, sarebbe qualificato al Banco di Santo Spirito. Se io volessi, e vorrei, se potessi, ma non posso. I tempi sono cambiati, e anche rapidamente, lei l'ha visto, no? Nella Seconda Repubblica io vengo secondo e lei deve rivolgersi a un primo. Ma primo viene solo Dio. O chi ne fa le veci? E abbiamo riproposto un altro stralcio dal film Il gioiellino, che da oggi nelle sale cinematografiche ripropone la ricostruzione della vicenda Parmalat, anche se il regista, e non siamo riusciti a capire bene per quale motivo, forse mi sono persa io questo passaggio dai giornali, in realtà nella ricostruzione non sia stato dato il nome Parmalat all'azienda agroalimentare della quale si parla, appunto si chiama Leda, mentre nel film Calisto Tanzi diventa Amanzio Rastelli, come avete sentito anche in questa parte che abbiamo ascoltato poco fa, un imprenditore provinciale, ambizioso, proprietario di questa grande azienda destinata a ramificarsi nei 5 continenti. E il gioiellino, perché si intitola così il film, perché è proprio il modo affettuoso con cui l'imprenditore chiama la sua azienda, e appunto nel film si racconta per filo e per segno la vicenda Parmalat. Quindi, prendendo a spunto l'uscita del film e prendendo anche a spunto la richiesta dei pubblici ministeri di Roma per il crack Cirio, oggi siamo ritornati a Salvadanaio su questi due clamorosi crack finanziari che hanno lasciato appunto in grande difficoltà migliaia di risparmiatori nel nostro paese, molto pochi dei quali hanno recuperato qualcosa. Qualcuno è andato meglio, ad altri un po' peggio, di sicuro non hanno recuperato un bel niente tutti i vecchi azionisti di queste due società. Allora, ci sono molti ascoltatori in attesa, prima però volevo sentire Giuseppe D'Orta, responsabile ADUC per la tutela del risparmio. Ci ha anche raggiunto nel frattempo telefonicamente Michele Cipolli del CRIPAP, il Comitato Risparmiatori Piccoli Azionisti Parmalat. Però con D'Orta volevo ritornare un attimo su Cirio. Abbiamo ricostruito le modalità con cui è avvenuto questo crack, con cui avvenne questo crack. D'Orta, mi chiedo, ad oggi di questi oltre 30.000 risparmiatori che avevano titoli appunto del gruppo delle conserve, perché così lo definimmo anche all'epoca, che tipo di, come dire, risarcimenti hanno ottenuto in questi anni? Avete un quadro così generale della situazione da poterci fornire? Sì, ci sono stati alcuni risarcimenti in questi anni, molto scarsi per il momento. Purtroppo già le somme a disposizione sono, quando c'è un fallimento, molto basse, poi i tempi delle procedure concorsuali in Italia sono lunghissimi, quindi al momento il recupero è stato per tutti scarso o anche nullo, a seconda delle emissioni. E quello che è peggio è che le loro prospettive proprio non sono affatto rosee. Diciamo, il gruppo aveva 7 bond in circolazione al momento del fallimento, uno solo è messo abbastanza bene come prospettive, quello della Del Monte Finance, che essendo una società operativa, industriale, non era una scatola vuota, potrebbe alla fine ricevere circa l'80% del nominale. Questo è l'unico bond dei 7. Potrebbe a condizioni che cosa? Perché parla al condizionale. Sono stime dei commissari. Ovviamente poi le stime possono essere... Comunque in questo caso dovremmo essere abbastanza certi, si potrebbe arrivare attorno all'80% di recupero. Per poter riuscire ad ottenere questa cifra, i risparmiatori in questi anni che cosa hanno dovuto fare? Che tipo di procedura, di percorso hanno dovuto seguire? Perché sono già trovati insinuati al passivo tramite il trustee, quindi non hanno dovuto fare nulla. E i riparti avvengono appunto tramite il trustee, rappresentanti degli obbligazionisti, e si ritrovano direttamente i soldi sul conto corrente, quindi da questo punto di vista non si devono preoccupare. Infatti, tra l'altro, a proposito di soldi ritrovati sul conto corrente, volevo ritornare per un attimo, adesso se riesco anche a trovare il foglio, a Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo, perché a febbraio il tribunale americano ha iniziato a distribuire i soldi della class action Parmalat, e quindi anche molti ex obbligazionisti di Collecchio si sono ritrovati sul loro conto corrente Martinello appunto un po' di denaro derivante proprio da questa procedura, molto poco rispetto a quanto avevano investito, però oltre al danno la beffa, perché praticamente, da quello che capisco, a queste persone è stato attribuito anche la spesa bancaria di incasso assegni. So che voi avete denunciato questa cosa all'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Certamente è questa era la beffa, oltre al danno la beffa. Dicevo prima che la class action americana sulla vicenda Parmalat è andata sostanzialmente male per i piccoli risparmiatori europei, perché la sentenza dell'anno scorso li ha esclusi per una serie di ragioni tecnico-giuridiche, e esclusi dai soggetti legittimati. Nel frattempo però c'era stata una transazione minima con due banche, il Credit Suisse e la BNL, che avevano offerto pochissimo, per la verità, ai risparmiatori coinvolti, 50 milioni di euro su un totale di 5 miliardi e mezzo di danni che erano stati dedotti in quell'azione davanti alla Corte di New York. E quella transazione adesso è stata autorizzata dal giudice ed è in esecuzione, sono importi di circa l'1% medio di quello che uno aveva vantato come danno e stanno arrivando questi importi. Ora cosa succede però? Che sono talmente bassi e arrivano via banca estera, in questo caso la Bank of Scotland sta facendo questi accrediti, che in alcuni casi la banca italiana, e qui è un piccolo episodio diciamo così di malcostume delle banche italiane sulle commissioni spropositate che a volte vengono applicate per accreditare i conti di questi risparmiatori, di questi importi provenienti dall'estero, chiedono delle commissioni che a volte sono di alcune decine di euro per il cambio valuta e perché arrivano in dollari o per l'accredito dell'assegno, e si tratta a volte addirittura di commissioni superiori all'importo in gioco, quindi è veramente c'è da ridere se non ci fosse da piangere, insomma. E abbiamo quindi scritto all'ABI una lettera settimana scorsa, aspettiamo la risposta, chiedendo che intervenga presso le banche per cercare di evitare questi accrediti così elevati e così anche ingiusti e inaccettabili in una situazione del genere. Allora, prima di dare la parola a Michele Cipolli del Comitato Risparmiatori Piccoli Azionisti Parmalat, vorrei sentire quello che deve dirci la considerazione di Walter da Pesaro, perché da quello che capisco la sua riflessione rappresenta un po' il presupposto anche dell'iniziativa intrapresa da questo comitato di cui ho invitato appunto questo rappresentante. Walter, buongiorno. Buongiorno. Io ho già sentito da un esperto che di fronte alle difficoltà ci si arrende, cioè non si tiene più conto dei validi motivi che hanno gli azionisti. Faccio un piccolo paragone: gli azionisti all'Italia che hanno sbagliato il loro investimento, perché lì non c'è stata truffa, cattivo andamento, hanno avuto un trattamento favorevole, hanno avuto qualcosa, mi sembra. Noi azionisti Parmalat, che non abbiamo sbagliato niente, settore anticiclico, bilanci ottimi, utili, disponibilità, come potevamo? Allora, c'è stata una truffa, chi non ha vigilato? La società di revisione, in primis, ma anche la Consob, e quindi lo Stato italiano che è dietro la Consob, devono essere chiamati a risarcire. È tanto semplice, perché questi grandimenti che hanno preso le nostre difese non arrivano neanche a questo? La Consob deve controllare sull'andamento delle società quotate, non ha controllato, non ha visto che a fronte di una disponibilità iscritta in bilancio non c'era niente. A fine anno i revisori devono chiedere le carte a fronte delle poste iscritte. Per anni non l'hanno chiesta. Walter, lei ha intrapreso qualche iniziativa in questi anni dal momento del... Finisco brevemente il discorso, sì. Poi riprende. Secondo motivo, validissimo, se la Parmalat prosegue l'attività, la nuova della vecchia, usando il marchio, usando le strutture, perché noi vecchi comproprietari di quelle strutture, di quel marchio, non possiamo beneficiare del positivo andamento attraverso uno strumento finanziario come un cover o come un warrant o qualcosa del genere? Certo. Cioè, qui c'è dell'oro a nostra disposizione e non ci si dà neanche il bronzo. Allora Walter, allora, non le richiedo il suo caso personale, vado direttamente a Michele Cipolli, perché appunto, come anticipavo prima, avevo già immaginato, avevo già letto appunto che Walter avrebbe voluto farci questa considerazione sul fatto di non potersi rifare sulla nuova società. Cipolli, ancora buongiorno. Sì, buongiorno a tutti voi. Mi pare che questo sia anche il vostro pensiero. Esatto, questi sono esattamente i presupposti per cui abbiamo iniziato la nostra azione. Ormai nel lontano 2005, e poi ci siamo costituiti come comitato nel 2006, però in realtà si è trattata di un'aggregazione di persone che si sono trovate in difficoltà dopo il default del dicembre 2003 e che in qualche modo si sono chiesti, seguendo tutto il percorso, in molti punti contraddittorio della vicenda, dopo il default hanno deciso in qualche modo di mettersi insieme e cercare di difendere i propri diritti, che da una qualcosa che si è configurato fino dall'inizio come una potenziale truffa nei loro confronti. Quindi effettivamente tutti i presupposti ci sono pienamente d'accordo con quello che ha detto Walter poco fa. Il problema è che poi a livello di norme e di leggi che sono state emanate in questo periodo sembra che i vecchi azionisti non possano rientrare nel capitale della nuova Parmalat, certo, cosa che secondo noi non ha non ha molto senso, per questo ci siamo rivolti alla magistratura. Ecco, infatti, allora, siccome mi piacerebbe capire anche qual è il percorso che ha fatto questo comitato in questi anni per far valere appunto le proprie ragioni, le chiedo un attimo di pazienza, Cipolli, perché adesso andiamo ai suggerimenti perché in viaggio ci sono poi Carlo e Paolo sulla questione Cirio e qui insomma sentiamo tutti insieme tra pochissimo. Allora, Michele Cipolli, la lascio concludere che iniziativa un rappresentante di un comitato risparmiatori piccoli azionisti della vecchia Parmalat, quella tracollata nel 2003, che iniziative avete intrapreso in questi anni, visto appunto che abbiamo ribadito più volte come per gli azionisti di queste società finite in bancarotta non ci siano le possibilità di recuperare alcunché, proprio perché per definizione aderiscono al capitale di rischio? Sì, abbiamo cercato ovviamente attraverso anche le associazioni di consumatori di creare un interesse anche condiviso da altri gruppi di risparmiatori come noi in difficoltà, poi ci siamo accorti che effettivamente anche cercando di parlare con l'azienda, capire effettivamente quale potessero essere le vie di uscita per i vecchi azionisti, non c'è stata risposta, non c'è stato un approccio collaborativo e quindi poi alla fine abbiamo interrotto la prescrizione che era molto, saremmo arrivati a breve alla prescrizione che è stata interrotta, abbiamo fatto causa, ecco, questa è stata l'unica possibilità, l'ultima possibilità. Vorrei precisare che noi siamo ovviamente molto contenti che l'azienda, la nuova Parmalat, sia ripartita dal punto di vista industriale e che continui a portare utili. Questo non vuol dire che noi vecchi azionisti dobbiamo rimanere fuori, ecco. Mi sembra più che giusto l'approccio di Walter. No, tra l'altro ha rifatto anche il parallelismo con l'Italia, che anche noi stessi abbiamo fatto più volte, non si capisce per quale motivo, per quell'azienda, va bene, lo Stato ha un ruolo diverso e aveva un ruolo diverso appunto in un'azienda come quella, però per quale motivo appunto gli azionisti sono stati risarciti, anche se in maniera complicata, con titoli di Stato, tutto quello che vogliamo, invece per quest'altra vicenda che ha alle sue spalle una truffa clamorosa, non si debbano trovare appunto delle iniziative di ristoro, di risarcimento. Detto questo, Cipolli, io la ringrazio per essere stato con noi, devo correre perché ho due ascoltatori. Stiamo già quasi andando verso la chiusura del programma, ma ci terremo sicuramente in contatto per farci raccontare da lei come finirà la vostra storia, tanto ho la sensazione che ancora ne continueremo a parlare a prescindere dalle sale cinematografiche ancora per diverso tempo. Paolo dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, niente, volevo portare una testimonianza. Io all'epoca avevo sottoscritto delle obbligazioni Cirio, cioè me l'avevo proposto, dopodiché ho fatto causa alla banca e da singolo privato e ho vinto la causa, mi hanno pagato sia le spese processuali che anche gli interessi. Ecco Paolo, ma che cosa è stato in grado di dimostrare? Che non aveva fatto consapevolmente questo investimento o che la banca glielo aveva venduto cercando appunto di liberarsi di questa obbligazione e scaricarla sul risparmiatore? Qual è stato appunto il presupposto? Il giudice mi ha dato ragione per il semplice fatto che la banca non poteva vendermi quel tipo di obbligazioni perché erano istituzionali. Il motivo principale è stato questo, quindi il mio avvocato ha spinto su questa linea e abbiamo vinto la causa. Grazie Paolo per la sua testimonianza. Volevo tornare a Giuseppe Dorta. Beh, se lui l'ha vinta abbastanza facilmente da quello che capisco, perché non dovrebbe valere anche per tutti gli altri? Allora devono finire di sentenze positive ce ne sono molte. Tra l'altro volevo specificare, ha chiesto a Paolo cosa aveva dimostrato nel corso della causa. In realtà nelle cause di risarcimento danni tra clienti e intermediari vale il principio opposto, è l'intermediario che deve dimostrare di essersi comportato correttamente. Quindi il cliente ha un problema in meno da questo punto di vista. Perché no, deve essere la banca o la SIM a dimostrare di aver seguito tutte le regole previste. No, ma io ho fatto raccontare anche la modalità con cui è arrivata al successo al nostro ascoltatore, perché quando parliamo di casi di risparmio tradito e immaginiamo iniziative legali da parte dei consumatori nei confronti dell'intermediario, non sempre, anche tutti gli ospiti che ho avuto in questi anni su questi casi, c'è un incoraggiamento radicale nei confronti di questa strada, perché magari Moria, se vuoi aiutami tu, bisogna anche verificare effettivamente che l'investimento sia stato fatto in un certo modo. Cioè, qui mi sembra che sia stato molto, molto semplice il risultato ottenuto dall'ascoltatore. Il problema è che bisogna vedere il caso, ovviamente raccontato adesso dall'ascoltatore. Il problema è che non è così semplice, perché queste obbligazioni non è che non potevano essere vendute, se no è semplice, tutti fanno causa. Non potevano essere vendute se non fosse stato risparmiatore a richiederlo, e soprattutto bisogna dimostrare o comunque provare che la banca che le ha promosse, le ha spinte, le ha incoraggiato il risparmiatore a questi acquisti. Per esempio, se uno avesse sempre investito in BOT, improvvisamente tutta la sua liquidazione l'avesse messa in obbligazioni Cirio, è evidente la sproporzione, che è evidente che questa persona è stata indotta in qualche modo. Altrimenti, chiedendole queste obbligazioni, si potevano comprare, non era vietato in sé, era vietato, diciamo, La promozione, la sollecitazione di questa obbligazione, però andare a dimostrare non sempre è così semplice. Questo è il problema, che non rende automatica la causa, anche se, come si dice adesso, tantissimi risparmiatori, anzi la maggior parte, ha vinto le cause. Allora andiamo a Carlo da Viterbo, invece ex azionista. Sì, io telefono perché ho nel portafoglio praticamente una piccola quantità di azioni, però praticamente a tutt'oggi queste azioni già in parte già avete di Cirio, no? Sì, di Cirio. Queste azioni praticamente non valgono niente perché non sono quotate neanche in borsa, quindi volevo sapere se c'è qualche possibilità di recuperare qualcosa su questa parte di investimento, oppure diciamo da lasciarli così come sono andati a finire. Qua chiedo a Paolo Martinello, presidente di Altro Consumo, oltre che avvocato, e insomma ritorniamo un po' sul tema che abbiamo ribadito fin dall'inizio. Sì, no, diciamo la possibilità è quella che abbiamo sentito adesso di questi casi positivi in sede giudiziaria. Naturalmente qui bisogna che sia stata interrotta la prescrizione, che ormai sarebbe decorsa se non è stata interrotta nel 2007, se non ricordo male, scadeva la prima tranche. E dopodiché confermo anch'io che le cause individuali, lo dicevo all'inizio, qui c'è stata una frantumazione dei risarcimenti e delle azioni, ma è vero che nelle cause individuali spesso il consumatore è riuscito a ottenere successo. Intanto le cause individuali sono state selezionate ovviamente da dei legali che, conoscendo la materia, hanno fatto causa quando si poteva. Numericamente non sono tantissime in rapporto al numero delle vittime, ma tra quelli pochi che hanno agito, parliamo di alcune, penso, migliaia. Adesso io conto alcune centinaia di sentenze, immagino che siano alcune migliaia di persone che hanno agito, e in questi casi la percentuale di successo è abbastanza elevata, perché come dicevamo prima la banca aveva degli obblighi. Parliamo dell'inizio degli anni 2000, quando quegli obblighi erano spesso violati dalle banche, bisogna dirlo questo, molto spesso l'obbligo di informare, di raccogliere le indicazioni dei consumatori veniva fatto in modo molto approssimativo dalle banche. Questo gioca a favore dei risparmiatori, che oggi possono dire: io non ti ho dato nessuna richiesta, non ti ho firmato nessun modulo, e in questi casi, adesso la faccio un po' semplice, ma diciamo la banca perde la causa. E quindi in questo caso bisognerebbe vedere se la situazione è di questo tipo. E infatti. E allora, insomma, anche oggi siamo arrivati alla conclusione della trasmissione. Non c'erano delle novità assolutamente rilevanti da raccontare rispetto ai casi Parmalat e Cirio, però ogni tanto vale la pena fare un punto della situazione, e questa settimana appunto abbiamo trovato il pretesto per fare un punto della situazione dalle decisioni prese dal Tribunale di Roma sul caso Cirio e da quello che invece avviene da oggi nelle sale cinematografiche, perché esce Il gioiellino che ricostruisce il caso Parmalat. Sicuramente ne ritorneremo a parlare più avanti. Adesso abbiamo la nostra rubrica previdenziale. INPS, per saperne di più. L'INPS continua a spiegarci le parole della previdenza. Il concetto di oggi è il sistema di pagamento delle pensioni. La posta o la banca sono gli uffici attraverso i quali l'INPS paga la pensione. La scelta del sistema di pagamento preferito va effettuata al momento della domanda di pensione, successivamente con apposita richiesta. In assenza di indicazioni, l'INPS metterà in pagamento la pensione all'ufficio postale più vicino al domicilio dell'interessato. La riscossione può essere fatta con le seguenti modalità: in contanti presso gli sportelli, con accredito sul proprio conto corrente, con accredito sul proprio libretto di risparmio, con assegno circolare non trasferibile, emesso solo dalla banca, inviato al proprio domicilio. La pensione può essere riscossa anche da una persona delegata. È in corso di sperimentazione in alcune città un sistema di accreditamento diretto della pensione attraverso l'utilizzo di una carta prepagata, che si aggiungerà alle modalità finora utilizzate. E abbiamo terminato anche per oggi. Grazie a Moria Longo, a Giuseppe Dorta dell'ADUC, a Paolo Martinello di Altro Consumo per essere stati con noi. Salvadanaio torna lunedì. Da Deborah Rosciani, buon fine settimana a tutti.